Storiacce di Raffaella Calandra. L'hai sentito allora? Ma non è più da casa. È tutto andato male la figlia. A carpo, pure per il gavasso, cioè. Ah no, gavasso non costa, non caseificio, fatto lo bar. Parlano in dialetto calabrese, ma parlano di Cavizzo, di Mirandola, di Concordia. Parlano e ridono, mentre i capannoni crollano sugli operai nella bassa modenese. Sono passate meno di 4 ore dalla scossa del 29 maggio 2012 che sfregiò interi paesi di case basse e campanili sinuosi, che già l'Andrangheta era arrivata nella zona rossa del terremoto, prima o comunque in contemporanea ai soccorsi, scrive il GIP di Bologna, che ha firmato gli arresti della più grande operazione contro i clan in salsa emiliana, proprio qui, in uno dei cuori più produttivi d'Italia, terra di grandi lavoratori e di antica tradizione rossa, la terra di Peppino e Don Camillo, diventata l'epicentro di affari illeciti, di patti occulti e di scambi di favori tra politici e boss. È la fine di un altro mito italiano? Da cui parte questa puntata di Storiacce? Parte dai capannoni ora ricostruiti del distretto biomedicale di Medolla, che fecero ridere chi 4 anni fa, alla notizia dei crolli, già pensava agli affari, proprio come era successo all'Aquila. Finalmente abbiamo capito che qui l'associazione mafiosa si muove come imprenditoria. L'indagine odierna riguarda esclusivamente l'Emilia. Parte da Modena, attraverso Reggio Emilia, che è l'epicentro, passa per Parma, Piacenza e tocca l'altra riva del Po, nella zona di Mantova in particolar modo. Praticamente tutta l'Emilia in questa mappa delle 'ndrine tracciata dal procuratore di Bologna Roberto Alfonso. C'è praticamente tutta l'Emilia con la sua tradizione di buona amministrazione e storica militanza di sinistra, ma c'è pure l'Emilia degli scambi di voti e favori e delle talpe pure tra le divise. C'è l'Emilia dove il clan calabrese Grandi Aracri spadroneggia da 30 anni, ma ora si è fatto imprenditore e subito, alla vista delle macerie, calcola i guadagni di almeno 2 anni di lavoro garantiti. E in effetti, tra demolizione e ricostruzione, davvero avvenne, grazie all'uomo giusto, in posti strategici come il comune di Finale Emilia, e grazie ad imprese come quella Bianchini, che la prefettura aveva escluso dalle white list a Parma e a Milano, dove puntava ai lavori dell'Expo, ma che poi il TAR aveva in parte riabilitato. Ma questo lo sentiremo tra poco nel dettaglio, perché questa è proprio una storia italiana di opposti provvedimenti e di istituzioni che in un certo senso si neutralizzano a vicenda. Ma questa 'ndrangheta emiliana è anche quella che ha partecipato da protagonista al grande boom immobiliare della bassa, dove le palazzine negli ultimi anni sono venute su come funghi, anche se poi spesso sono rimaste vuote. E quegli appartamenti invenduti potevano forse essere la spia di investimenti non proprio lineari, quantomeno di una forte liquidità tutt'altro che scontata in tempi di crisi. «Segui il flusso dei soldi», disse la gola profonda ai reporter del Watergate. Una regola valida sempre, ma in questo caso forse non bisognava neanche scomodarsi a trovare la fonte giusta per sapere da dove venissero quei soldi. Bastava entrare in un bar, bastava fermarsi ad uno dei capannelli di gente che da queste parti ancora si ritrova nelle piazze per scoprire immediatamente dove portava quel flusso di denaro. Portava a quasi 1000 chilometri di distanza, in un piccolo borgo del Crotonese. Ma è qui, ora, a Sorbolo, ad esempio, in provincia di Parma, che è stato sequestrato un intero quartiere noto come Piccola Venezia, ma che, visti i fatti, forse doveva essere chiamata Little Cutro, anche se ora uno dei pochi a dirsi stupito dell'inchiesta è proprio il sindaco Nicola Cesari. È un'area che è stata, diciamo, urbanizzata negli anni passati. Parliamo del 2002-2004. Alcune di queste sono abitate, altre sono ancora vuote, e in passato appunto le aziende che hanno costruito sono appunto le stesse che sono state coinvolte in quello scandalo, quindi di cui tutti conoscete i nomi. Esatto, nell'inchiesta Emilia si tratta appunto di aziende che sono state considerate, diciamo, vicine al clan calabrese Grandi Aracri, quindi parliamo di 'ndrangheta. Però appunto venendo anche raccontando, insomma, tutta quanta un po' il paese di Sorbolo, ma anche Brescello, ma anche molti paesi della zona hanno avuto un vero e proprio boom immobiliare negli ultimi anni. L'urbanizzazione è stata così in tutta, non solo nel nostro territorio, ma anche in aree diverse da questa. È ovvio che quando questo si incontra con la crisi, nessuno poi va a immaginare che ci possono essere anche delle situazioni di questo tipo. Mai si poteva immaginare questo, tutti devono fare il loro percorso per poter poi andare a verificare esattamente se questi sigilli è opportuno che li mettano. Una sfilza di appartamenti vuoti e sfitti anche a Reggio Emilia. Di 400 si parla in un'intercettazione ricordata da un collega dell'Espresso, Giovanni Tizian, che per aver scritto di investimenti dell''ndrangheta nella Bassa è stato minacciato. Da anni si denunciava l'esistenza di tantissimi appartamenti sfitti. Nelle intercettazioni si parla addirittura di uno di questi degli indagati che con le sue imprese ha costruito 400 appartamenti a Reggio Emilia. Andando lì, in quelle zone, quindi tra Reggio, Brescello, eccetera, bastava parlare con i cittadini. Questi ti dicevano che le case intorno, proprio te le indicavano, dicevano queste erano fatte l'azienda dei Grandi Aracri, cioè l''ndrangheta entra direttamente nelle nostre vite, cioè offrendoci, come dire, la casa, e questo è forse l'elemento che la rende ancora più vicina e per questo forse ancora più invisibile. Da Reggio Emilia a Cutro, 800 chilometri giù di lì, che sono stati percorsi negli anni 60 da centinaia di emigranti calabresi. La maggior parte è gente onesta, lavoratori, è bene specificarlo, ma arrivarono in quei flussi anche i boss di 'ndrangheta, e quegli stessi chilometri negli ultimi anni li hanno percorsi pure i soldi delle estorsioni portati col pullman dal Crotonese all'Emilia. Ma li hanno percorsi in direzione opposta, da nord verso sud stavolta, pure i tanti amministratori locali invitati per la festa del crocifisso dalla comunità più rappresentata da queste parti, tanto che Reggio Emilia è detta anche la Cutro numero 2. E la fece questa spedizione a sud pure l'attuale sottosegretario, già sindaco reggiano, Graziano Del Rio, sentito come persona informata sui fatti dai PM. È stata un'ingenuità, ma noi rivendichiamo la nostra diversità e la nostra storia, reagisce Luca Vecchi, attuale sindaco della città che fu patria del tricolore e della resistenza, ma ora pure epicentro della cellula emiliana di 'ndrangheta, dove un consigliere comunale proclamava che i voti ti portano in cielo. È stata indubbiamente una ferita, uno shock emotivo molto forte. Sapevamo, insomma, ormai da tempo dell'esistenza di questa cosca, però devo anche dire che negli anni recenti, in particolar modo gli ultimi 5-6 anni, il territorio e le istituzioni hanno reagito con grande forza. Innanzitutto la prefettura, che ha iniziato un lavoro importante sul fronte delle interdittive, cominciando a bloccare una quantità enorme di aziende, vorrei dire anche il sistema degli enti locali, che ha completamente cambiato pelle nel proprio modo di lavorare sul fronte degli appalti, dei subappalti, della trasparenza. Ce l'avevate anche proprio in casa, una consigliere comunale che, diciamo, è stato accusato anche proprio di aver fatto, diciamo, da snodo tra il mondo della politica e il mondo delle cosche, classico voto di scambio. L'arresto di un consigliere comunale è un fatto grave. Sono finiti in carcere quasi 200 persone, quasi tutti imprenditori. È finito in carcere un esponente politico di un gruppo di minoranza. Dalle intercettazioni telefoniche emerge che la cosca era apertamente schierata contro le amministrazioni locali. C'è una ragione storica e politica per cui questa cosca ce l'aveva con le amministrazioni di sinistra. E cioè che noi non abbiamo dato spazio in questi anni. Abbiamo sostenuto con grande forza le azioni del prefetto De Miro sul fronte delle interdittive, anche quando c'era all'interno di una certa opinione pubblica la sensazione che queste azioni fossero eccessive. E c'è stata una battaglia politica molto forte, anche e soprattutto portata avanti dal senatore Giovanardi contro le interdittive che hanno toccato una serie di aziende. Il senatore sindaco Giovanardi non mi risulta iscritto al PD. Quantomeno poi si potrebbe fare anche un discorso, diciamo, di non aver visto al quello che negli anni è avvenuto. Insomma, in questa resistenza che i sindaci e le amministrazioni locali hanno portato in questi anni c'è anche, come dire, lo spirito di fondo di quella storia. Nella città di Reggio Emilia e in tutta quanta la provincia c'è una comunità molto forte di cutresi. C'è mai stato anche lei a Cutro, come è successo anche per altri sindaci, compreso Del Rio? No, non ci sono mai stato neanche nella mia veste di consigliere comunale. Noi abbiamo una comunità molto grossa, insediata a Reggio ormai da oltre 40 anni. Stiamo parlando di oltre 15.000 persone e da una parte dobbiamo, secondo me, non generalizzare, ma dall'altra dobbiamo certamente anche aprire una riflessione pubblica. In carcere sono finiti per la quasi totalità imprenditori di origine calabrese, quindi c'è una riflessione da aprire anche in questo senso. Secondo lei è stato quantomeno un po' una leggerezza da parte anche dei suoi colleghi andare addirittura giù in Calabria? Guardi, col senno di poi credo che nessuno di loro andrebbe giù. Poi, per la verità, queste trasferte ci sono sempre state, perché coincidevano ogni 7 anni con, questo va detto, con la festa del crocifisso, quindi con una grande radunata che nel paese avveniva e che portava a casa i migranti da tutto il mondo, per cui anche le amministrazioni precedenti erano sempre andate. Distinguiamo tra una visita, opportuna o inopportuna che sia, e fatti oggettivi. Quindi sport, è stata una leggerezza, quindi. Io credo molto nella buona fede delle persone, che a volte nella vita possono anche commettere delle ingenuità. Possiamo capirlo, il disorientamento di chi si è sempre fregiato della gloriosa storia di resistenza e coraggio e ora invece vede associato il nome della sua città a snodo degli affari di 'Ndrangheta. Capiamo forse meno però l'incapacità di notare spie abbastanza esplicite di infiltrazioni mafiose tentate in almeno 4 amministrazioni, conferma il procuratore di Bologna Alfonso. Ci sono delle elezioni comunali che sono state inquinate, ma poi abbiamo pure dimostrato il rapporto stabile fra un uomo politico e l'organizzazione mafiosa in termini di scambio di favori e di supporti reciproci. Questa è storia di scambi di favori e voti con i boss, ma è anche la storia di clan che dal cuore della Calabria riescono a raggiungere un giudice di Cassazione e un alto prelato in Vaticano. Ed è la storia di una 'Ndrangheta che sente l'esigenza di avere una precisa strategia mediatica per neutralizzare la pubblicità negativa dei provvedimenti giudiziari. E questa è anche la storia della mobilitazione di politici come Carlo Giovanardi a favore di ditte ora accusate di affari con la 'Ndrangheta. Storiacce. Momento. Cosa fate qui? Cosa volete? Non ho mai dimenticato come veniste a salutare quando andai in esilio. Ora siete voi ad andarvene. Io non vado in esilio. Parto perché ho vinto, non perché ho perduto. Hai perduto tua moglie che ti ha votato contro. Hai perduto il tuo paese dove eri qualcuno. E cosa ci hai guadagnato? Di diventare un anonimo, una pallina da buttare nell'urna. Io sarò sempre quello che sono. Ah sì? E allora quando ti metteranno a sedere in una grande aula, come a scuola, allora penserai a tutte quelle cose che hai lasciato qui al paese. Penserai a quello che vedevi dalla finestra la mattina, quando ti facevi la barba. Penserai al tuo lavoro nell'officina e a come ti divertivi la domenica. E penserai anche a me, che non sarò più lì a darti un cazzotto in testa quando te lo meriti, vale a dire almeno una volta al giorno. Quando ritorno vi riduco in briciole. Ma se lo sai che non torni più e che non posso neanche dirti arrivederci, Peppone, ma soltanto addio, onorevole. Chissà Peppone cosa avrebbe detto a Don Camillo, a sentire che pure sulle elezioni amministrative di Brescello, il suo paese, la 'Ndrangheta ha provato a metterci lo zampino. Lui che rinunciò alla poltrona da parlamentare per restare ad essere il primo cittadino del borgo consacrato dalla saga di Guareschi, in un certo senso profanata anch'essa da pezzi di un'inchiesta che la inserisce negli snodi cruciali degli affari del clan Grandi Aracri di Cutro, in grado di avvicinare un giudice di Cassazione per rivedere una sentenza, ma pure di mobilitare attraverso una giornalista un alto prelato del Vaticano per ottenere un trasferimento di carcere. Abbiamo ridisegnato l'organizzazione della stessa 'Ndrangheta da queste parti, racconta il colonnello dei Carabinieri di Crotone, Francesco Iacono. È un gruppo importantissimo, Grande Aracri Nicolino è considerato il vertice di questa organizzazione criminale. Si parla di una struttura piramidale denominata convenzionalmente, nel loro linguaggio, con il termine di provincia. Decidere le azioni criminali in Emilia Romagna, questo sì, questo le posso dire che sono decisioni che sono partite dalla Calabria. Questo Questo clan è lo stesso che ha colonizzato la Bassa Modenese e che, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, facilmente si è inserito negli appalti pure del post-terremoto. Quello che invece ora vi raccontiamo è un altro aspetto di questa storia tutta italiana, la parte che racconta di come una serie di ditte, compresa la Bianchini, ora al centro dell'inchiesta emiliana, fosse stata bloccata dalla prefettura, che l'aveva esclusa dalle white list, ma poi, almeno in un caso, il TAR l'ha riabilitata. Quello della Lombardia è stato, dove puntava ovviamente come tutti al grande business dell'Expo. Da una parte dunque i provvedimenti preventivi, pensati proprio per tenere lontane le possibili infiltrazioni mafiose, dall'altra le decisioni della giustizia amministrativa, che in questo caso aveva parlato di pregiudizio. In mezzo un'intensa campagna di mobilitazione politica, soprattutto del senatore modenese di Forza Italia Carlo Giovanardi, contro le interdittive prefettizie. Il TAR dell'Emilia Romagna ha visto un mese fa, ha detto, annullando l'interdittiva della ditta di Mirandola, che alla stregua dei criteri usati dai prefetti viene cancellata in Italia la libertà di impresa. Sulla base di questi criteri che un imprenditore può fare in questa regione e dire alla larga non voglio parlare né con i calabresi né con i siciliani né con i campani. Questo però diciamo è una generalizzazione, nel senso che non è che poi tutte le imprese campane, calabre o siciliane sono colluse. Però ok, veniamo però alla situazione specifica di queste ditte e della questione anche del terremoto. Allora, quando c'erano state queste interdittive, appunto, anche lei si interessa e fa anche un'interpellanza parlamentare. Ora allora, io ho cominciato con la sono fatto l'incontro con i costruttori. La Bianchini ha avuto un anno e mezzo fa l'interdittiva, è un'impresa che la famiglia stimata, conosciuta, eccetera eccetera, ma diciamo un'impresetta, non solo ha avuto la whitelist e quindi sostanzialmente sta fallendo, ma il figlio ha chiesto a sua volta la whitelist. Nel provvedimento hanno detto che c'era un disegno per cui per aggirare la whitelist del padre era stata fatta questa azienda del figlio che ben Simò negli ultimi 6 mesi ha avuto lavori per ben 140.000 euro complessivi. Visto tutto quello che è venuto fuori, si era speso un po' troppo rispetto a questo. No, ma io sto parlando dei Bianchini e che siano distrutti sulla base di accuse, l'amianto. Ma l'amianto che cosa c'entra con l'interdittiva antimafia e l'amianto? Se il problema della Dranca e della Camorra fosse la Bianchini, evviva dico io. È vero che al peggio non c'è mai limite, ma c'è poco da festeggiare in realtà se un'azienda, sia pur non enorme, aveva arruolato tra i dipendenti uno già condannato per mafia, bolognino, e sia sospettata di aver fatto affari con le cosche per lo smaltimento delle macerie del terremoto e per la ricostruzione di scuole e palazzi pubblici. E c'è poco da festeggiare, ma molto da riflettere invece anche rispetto al fatto che città che vai, provvedimento che trovi, da una parte Parma, dall'altra Milano, da una parte le prefetture, dall'altra Itarra. A far insorgere il modenese Giovanardi soprattutto il passaggio di una relazione della direzione investigativa antimafia che parla di occupazione militare non solo del territorio ma anche dei cittadini e delle loro menti. In tutti i casi modenesi da questo meccanismo delle prefetture hanno avuto solo dei danni giganteschi, non c'entravano niente con la mafia e la camorra. Ha avuto un danno all'economia modenese gigantesca, e vuole che io accetti che in un atto pubblico si dica che tutti i modenesi e tutti i reggiani, le nostre menti sono state conquistate dalla criminalità organizzata? Ma di come stiamo scherzando? Siamo tutti mafiosi qui? Il risentimento e l'orgoglio modenese del senatore è in un certo senso comprensibile, ma se si va a guardare quello che gli inquirenti ora ricostruiscono, c'è davvero anche il condizionamento dell'opinione pubblica nell'azione dei clan, che arrivano a sentire il bisogno di costruirsi una strategia mediatica per neutralizzare l'effetto dei provvedimenti amministrativi come le interdittive. Così, se da una parte avevano provato invano a fare pressioni su una cronista dell'Ansa e del resto del Carlino, dall'altra sapevano di poter contare su una penna compiacente, Marco Gibertini, ora accusato di concorso esterno. E questo è uno degli aspetti più inquietanti e più nuovo, almeno nel nord del paese. In Calabria invece, e non solo, già più volte, la stampa pure è stata utilizzata in modo strumentale e funzionale al clan. Ed è per questo che ora con Giovanni Tizian, collega dell'Espresso, diciamo che è giunto forse il momento che anche la nostra categoria faccia autocritica. Dimostra il volto davvero imprenditoriale di questa 'ndrangheta emiliana. cioè il fatto di costituire un gruppo, una sorta di ufficio stampa, una sorta di ufficio stampa per riabilitare gli imprenditori colpiti dalle interdittive del prefetto. Sostanzialmente è un salto di qualità. Noi scriviamo spesso, no, delle complicità col mondo delle professioni. Io dico che è arrivato anche il momento di fare autocritica, nel senso che il giornalismo e l'informazione non sono esenti da queste dinamiche. Vero. Perché l'informazione è preziosa per riabilitare le figure di qualunque tipo, è preziosa perché crea opinione, no? Quindi pensiamo in un territorio locale, no? L'imprenditore che viene bloccato dal prefetto oppure viene arrestato ha la possibilità di parlare ai cittadini e dire: guardate che non è vero quello che dice la procura o dicono gli investigatori, sono una bella persona e ve lo dimostro perché sono un imprenditore che ha costruito tutte queste case, che ha fatto girare l'economia reggiana. Tu critica perché abbiamo un ruolo importante nella società. E quante volte la stampa, delle piccole realtà locali soprattutto, è stata usata per mandare messaggi in codice, nel tempo, senza tempo del mito, esisteva una divinità apposita per fare da ambasciatore, Hermes, messaggero degli dèi. Anche la sua storia è in Olium Post, il libro di Giorgio Giordano, la voce delle nostre mitiche storiacce, professore di greco all'Università di Trento. Ma non solo messaggi circolavano nell'antichità, pure la stessa fame di soldi di oggi. Mitiche storiacce. Maledetta fame dell'oro, auri sacra fames, diceva Virgilio nell'Eneide. Lo diceva a proposito di una storiaccia mitica, la storia di Polimestore, re della Tracia, che ammazza a tradimento Polidoro, il figlio del re di Troia, Priamo, per impadronirsi del tesoro della dinastia troiana. Per denaro si può uccidere. Virgilio parlava del mito, ma ovviamente pensava anche alla Roma dei suoi tempi, dove i processi per corruzione erano all'ordine del giorno. Accadde anche a un eroe mitico di essere accusato di corruzione. Si chiamava Palamede. Era uno dei guerrieri che combatterono a Troia, un eroe ingegnoso, ma venne a contrasto con uno più ingegnoso di lui, l'astuto Ulisse, che per liberarsene lo accusò di corruzione. Ulisse nascose nella tenda di Palamede un forziere d'oro e una falsa lettera in cui Priamo, il nemico dei greci, lo ringraziava per i servigi che gli aveva reso. Palamede fu messo sotto processo dagli Achei e condannato alla lapidazione. Ma queste sono solo mitiche storiacce. I magistrati oggi sembrano avere prove più solide rispetto all'assemblea degli Achei. Mito e realtà qui non vanno a braccetto. Grazie dunque a Giorgio Ieranò. Per riascoltare questa puntata di Storiacce e tutte le altre, il sito è radio24.it. Se avete però segnalazioni che volete sottoporci, ricordatevi che l'angolo finale della trasmissione è dedicato a questo. Scriveteci un'email oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter. L'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.